A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. 100 miliardi, un vero tesoro che farebbe comodo e non poco alle casse di un'Italia in crisi. A tanto ammonterebbero i soldi tuttora all'estero degli italiani, dopo più condoni e ripetuti scudi. In principio fu quello Berlusconi nel 2001, poi venne la finanziaria Tremonti del 2003, quindi lo scudo Ter del 2009, che permise allo Stato di incassare 5,6 miliardi di euro. E da qui, da queste cifre, parte questa puntata di A ciascuno il suo nella ricchezza mancata dell'Italia. Il titolo era Liste degli evasori. Intanto partiamo da qui. Erano liste di evasori? Probabilmente sì, in quelle liste c'erano anche tante persone che avevano scudato, perciò di fatto non erano più degli evasori, forse lo erano stati. Il suo nome era tra quelli della lista di Vaduz, gli italiani con conti nel Liechtenstein. Poi sarebbero spuntati gli elenchi di Messier Falciani, quelli trovati nel PC di Guastalla, e tra processi, intrighi internazionali, storie di 007 e accertamenti fiscali, le polemiche sui soldi all'estero sono diventate sempre più roventi. Tra le 157 posizioni della lista Vaduz, 390 nomi per un totale di 1,3 miliardi, c'è anche quella di Alessandro Bax, imprenditore con passaporto tedesco, residenza in Italia, e l'ironia che gli permette di scriverci che quando sarebbe tornato dalle sue vacanze, lunghe perché gli evasori, dice, hanno parecchio tempo libero, ci avrebbe incontrato. Così, proprio nei giorni in cui la lotta all'evasione è una delle sfide centrali del nuovo esecutivo, noi cambiamo prospettiva e ora vi raccontiamo la storia di chi i propri soldi li ha avuti a lungo all'estero, su suggerimento anche degli stessi promotori del primo scudo fiscale, come ci racconterà Alessandro Bax. Al momento della lista erano depositati presso la banca LGT a Lugano, di proprietà di fondazioni che erano state create presso la LGT Treuhand di Vaduz. Lì erano arrivate dalla Germania, da un conto presso una banca a Monaco. Quindi i suoi genitori tedeschi avevano un conto a Monaco, decidono ad un certo punto di spostare i soldi al Liechtenstein per ragioni di convenienza fiscale? Non esattamente. I miei genitori sono venuti in Italia negli anni 40. I soldi sono stati trasferiti dal conto presso la banca di Monaco alla LGT su indicazione della stessa banca di Monaco. Riteneva che potessero esserci dei rischi fiscali, anche se il motivo per i quali i soldi erano tenuti all'estero non erano di sicuro primariamente motivi fiscali. E lei perché ha conservato i soldi all'estero, lavorando ed operando in Italia? In quell'epoca non è che fosse facile far rientrare i soldi in Italia. Erano di fatto, se vogliamo, un problema. Ti esponevano ad un rischio e non potevi utilizzarli liberamente. Non avendone mai avuto bisogno, non abbiamo mai dovuto fare dei salti mortali per rimpatriarli di nascosto, perché altra via non c'era, se non quella di passare da una dichiarazione al fisco, che sarebbe stata molto penalizzante. Le posso chiedere l'entità? Qualche decina di milioni di marchi. Ci sono state molte persone e anche molte vicende, molte inchieste lo hanno raccontato, che hanno rimpatriato e che continuano a rimpatriare i soldi dall'estero, anche nel più vecchio e più tradizionale dei modi, che sono gli spallone. Beh, indubbiamente sì, non è mai stato fatto, in quanto non c'era la necessità di averli qui. Però c'era la consapevolezza che quei soldi lì vi rendevano non a posto col fisco italiano. Sì, 2001 si è presentata un'occasione eccezionale che in fondo si aspettava. In quel 2001 viene introdotta la possibilità di scudare i soldi all'estero. Esatto, volevamo approfittare dell'occasione, cosa che abbiamo fatto, scudando tutto il patrimonio detenuto all'estero, in altre banche. La stessa cosa volevamo fare anche con i soldi che erano depositati presso la LGT. Purtroppo è successo un fatto che ci ha fatto inciampare e visto a posteriori compiere un grossissimo errore. Cioè? La Elgeté Treuhand, la fiduciaria della Elgeté. Quindi siamo a Vaduz. Siamo in Vaduz. Per non perdere i clienti aveva preparato dei fondi fiduciari, delle Stiftungen, che sostenevano soddisfare completamente le leggi italiane, anche quelle fiscali. Vi avevano garantito, esatto, che queste Stiftungen, all'interno delle quali sarebbero confluiti il resto dei vostri soldi, giusto? Sì. Sarebbero state in accordo, in ordine, anche rispetto al fisco italiano? Esatto, garantito è una parola grossa, è stato assicurato. Di sicuro sono state mostrate delle leggi italiane per le quali le società estere sottostavano alla fiscalità del paese nel quale erano costituite. Tant'è che, per esempio, i trust di diritto inglese non sono mai stati perseguiti nel modo nel quale sono state perseguite le Stiftungen in Svizzera o nel Liechtenstein. Quindi lei e la sua famiglia nel 2001 scuda parte del capitale che avevate in Liechtenstein, giusto? Sì. Mentre un'altra parte resta a Vaduz. Sì. Dopodiché che cosa succede? Succede rapidamente qualcosa. Un dipendente della LGT sottrae tutti i dati detenuti nell'archivio della LGT Treuhand, li trasferisce su dei dischetti. Dischetti che poi sappiamo essere stati comprati dai servizi segreti tedeschi e poi da lì hanno fatto un po' un giro di mezzo mondo e da lì è venuto fuori l'inizio del primo scandalo, diciamo, delle liste di Vaduz. Il dipendente a sua volta è stato condannato per furto, però a quel punto compaiono queste liste delle persone che avevano i conti all'estero, tra cui lei. Usiamo questa parola un po' abusata, uno shock, perché mai più si sarebbe pensato che quella che veniva ritenuta una delle fiduciarie più affidabili del Liechtenstein, che a questa fiduciaria potesse succedere questo. Perché se uno porta quei soldi lì è anche in nome della segretezza. Certo, certo. E stupefacente a questo proposito il fatto che non siano stati in grado di proteggersi e proteggere i clienti in maniera migliore, ma soprattutto che quando sono venuti a conoscenza della sottrazione di questa documentazione non abbiano fatto alcuna comunicazione ai clienti. Cioè, voi l'avete scoperto da notizie di stampa italiana? Sì, il tutto è stato scoperto perché è stato arrestato un personaggio che era nelle liste di Vaduz, una persona di cittadinanza tedesca con residenza in Germania. Sono andati a prenderlo in mezzo alla notte con tanto di polizia, forse anche di telecamere fuori, il mondo è venuto a sapere questo caso. Con la vostra banca a Vaduz, con la Stiftung del Liechtenstein, come vi siete regolati? Che cosa è successo? Ci siamo anche noi e non ci siamo anche noi, fino a quando non sono stati pubblicati gli elenchi dei cittadini residenti in Italia, cosa che probabilmente è successa solo perché si era sotto elezioni e c'è stata una polemica sul fatto, ma ci saranno dentro anche quelli che adesso sono nelle liste. Cominciarono ad arrivare, a iniziare le varie inchieste sparse nelle varie procure d'Italia, quindi tra un nome, in uno stillicidio di nomi, ad un certo punto la lista venne fuori per intero. Voi vi siete rivalsi in qualche modo nei confronti della fiduciaria del Liechtenstein? O no? Nel primo momento no, anche perché tutta la documentazione che ci serviva per difenderci potevamo averle solo dalla LGT, collaborazione che in parte c'è stata, soprattutto devo dire dai livelli più bassi, medio-bassi, che a loro volta erano stati trattati male dalle alte sfere dei due istituti, perché a loro volta non sapevano di niente. Poi in un secondo momento in qualche modo siete andati a chieder conto del perché quel segreto che doveva essere tutelato non è stato garantito, oppure no? Ci sono stati altri che lo hanno fatto rapidamente. E lei, dopo che appunto il suo nome era comparso nella lista di Vaduz, ha concluso, diciamo, le sue varie pendenze amministrative? Dovrebbe essere concluso con l'Agenzia delle Entrate. E si è concluso con una transazione? In parte con un accertamento con adesione e in parte con un ricorso da parte mia, ricorso vinto e non appellato dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorso era perché erano decaduti i termini. I termini erano stati ripresi grazie alla legge Visco-Bersani prevedeva il superamento di una soglia minima che non era stata superata. Ecco, signor Bax, si parla adesso molto, è stato uno degli elementi anche un po' suggeriti in questo preciso momento di difficoltà economica, di crisi per l'Italia, si è a un certo punto parlato della possibilità che anche chi aveva già scudato i propri capitali all'estero potesse avere una seconda richiesta, diciamo, va da sé immaginare che non la troverebbe d'accordo. Beh, in linea di massima sicuramente no, sarebbe andare contro una propria legge, una legge che lo Stato aveva messo e contro un contratto che era stato stipulato per fare in modo che questi capitali rientrassero. Ma secondo lei era effettivamente troppo bassa quella percentuale che vi era stata chiesta del 3%? Se non erro, 2,5. 2,5, ecco, in altri paesi è stata ben più alta. Dovrei dire che era giusta, per onestà probabilmente era bassa, però bisogna anche considerare che doveva essere resa appetibile per far rientrare i capitali. Io avevo già fatto un passo nei confronti della banca per dire: io questo primo balzello potrei anche pagarlo, però provate un po' a sentire tutti gli altri clienti se non si può, poi pagato il primo, fare una qualche azione nei confronti dello Stato per dirgli: va bene, questa te la paghiamo, ma poi dopo sappi che alla prossima facciamo ricorso tutti insieme e ti chiediamo anche quelli che ci hai chiesto la volta prima. Cioè, quindi lei dice, nel caso in cui anche adesso vi dovesse essere chiesto di nuovo di pagare una tassa su quei capitali già scudati, potrebbe esserci poi una rivalsa successiva, perché dice è lo Stato che smentisce se stesso? Questo è come lo vedo. Ritengo anche giusto che gli intermediari che a suo tempo avevano fatto lo scudo si rendano promotori di un'azione nel confronto dell'Agenzia delle Entrate e dello Stato per dire: va bene, ti paghiamo un'altra una tanto, ma poi non si può fare così. Ma a lei che effetto ha fatto vedere associata la sua vicenda a quelle che erano appunto titolate ovunque come liste di evasori? Mi è dispiaciuto, perché io concretamente non mi sono mai ritenuto tale. Però la convenienza fiscale del portare dell'avere i soldi in Liechtenstein, cioè... Allora, i motivi per i quali mio padre li aveva tenuti all'estero erano altri. Gli anni 60, gli anni 70 non sono stati anni facili. Si era a rischio per il fatto di essere ricchi. Rischio sequestri? Da un lato la malavita e dall'altro anche un'esposizione verso azioni sindacali nelle aziende. Nella seconda parte di A ciascuno il suo, Alessandro Bax, ex correntista di Vaduz, manda un messaggio anche a Mario Monti sulla sua battaglia anti-evasione e a quegli italiani che ora potrebbero portare i soldi all'estero. A ciascuno il suo. Scherza, di sé parla in terza persona e arriva pure ad ironizzare sulle vacanze lunghe degli evasori. Ma quando poi ripercorre la sua storia, come abbiamo sentito nella prima parte, il perché di una ricchezza offshore che l'ha portato a vedere il suo nome nella lista dei correntisti di Vaduz, Alessandro Bax, imprenditore in Italia ma con passaporto tedesco, chiarisce che sui redditi prodotti da noi ha sempre pagato le imposte, diverse centinaia di milioni di lire precisa, per partecipazioni in alcune aziende. Quei soldi in Liechtenstein, invece, hanno una storia più lunga, che parte con i suoi genitori subito dopo la guerra e approda in una Stiftung che era consentita dall'Italia inizialmente, chiarisce. Nel mezzo c'è uno dei più clamorosi furti di dati dalla banca di Vaduz. Ci sono gli scandali, le inchieste di più procure e ci sono gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. E tutto questo porta ora Alessandro Bax a dire a Mario Monti: caro Presidente, ci convinca che le tasse sono davvero un investimento. Negli anni accertabili, tre Stiftungen che erano state costituite in Liechtenstein avevano evaso un reddito intorno ai 100.000 euro. Sembra pochissimo, ma dipende dal modo dal tipo di investimento. E l'Agenzia delle Entrate, per un effettivo evaso di, dico 100.000, mi pare 90.000, tra i quali redditi di una fondazione che era stata costituita a puro scopo benefico, se vuole glielo posso anche dimostrare con tutte le documentazioni, a fronte di questo l'Agenzia delle Entrate ha chiesto imposto una tassazione di oltre 2 milioni di euro, che poi è stata chiusa più o meno su 1,7. C'è una certa sproporzione. Ecco, ma quindi secondo lei per quale ragione tanti italiani continuano a portare i propri soldi all'estero? Che cosa potrebbe incentivare invece imprenditori più o meno piccoli, ricchi italiani a varie proporzioni a tenere di più i soldi in Italia invece che portarli all'estero in questo momento? Probabilmente quello che si dovrebbe avere in Italia sarebbe più certezze. Più certezze che quello che viene chiesto al contribuente sia giusto, sia una quantità di denaro logica e che venga utilizzata a scopi che siano veramente proficui per tutti. Cosa pensa di questa campagna anti-evasione così forte che c'è in questo momento in Italia? Il primo termine che mi viene in mente è ridicolo. Perché? Perché, guardi, c'è stata una delle tante indagini di mercato del signor Mannheimer qualche mese fa, che mi è rimasta in testa, dove si chiedeva quali erano le cose che più davano fastidio agli italiani. A parte la prima voce, che era oltre il 99%, che aveva qualcosa a che fare con i nostri politici, ed è comprensibile. La seconda era l'evasione fiscale, con un 98% di votazione. È una delle piaghe italiane l'evasione fiscale. Sì, ma questo vorrebbe dire che il 98% degli italiani non evade le tasse, che non è vero. Anzi, io sono convinto che il 98% degli italiani evada le tasse. Quindi lei dice si dichiarano favorevoli a una lotta all'evasione fiscale e poi dietro le quinte evadono le tasse. Ma lei nel momento in cui... O se non evadono, le evaderebbero. Se potessero, le dice, se non fossero dipendenti. Ecco, ma adesso le faccio una domanda diretta. Ma lei, in qualche modo, nel momento in cui è venuto fuori tutto all'epoca il dibattito sulle liste e poi adesso in tutto questa attenzione che c'è sull'Italia, la sua crisi e tutto quanto, non si è mai sentito un po', diciamo, in colpa per aver avuto dei soldi all'estero? Direi ni, più no che sì. Sicuramente mi rendo conto di aver fatto un doppio errore nel non averli scudati. Primo, perché è stato pagato molto caro, e secondo, perché sarebbe stata la cosa giusta da fare. Quello che c'era prima non potevo cambiarlo. Erano lì, e portarli in Italia sarebbe stato un bagno di sangue, perché con le sanzioni RW si vanno a pagare delle cifre che sono fuori dalla logica. Una penalizzazione molto forte, nell'ordine del, penso, del almeno del 30%, 35%. Non erano lì perché erano frutto di un'evasione. Noi avevamo delle partecipazioni in aziende. Che tipo di azienda? Fino agli anni 90, fino a quando abbiamo ceduto mia sorella e io queste partecipazioni, avevamo nelle dichiarazioni del reddito delle tassazioni che in certi anni sono arrivati a 500-600 milioni di lire. Difficile dire sei un evasore, no, ho pagato quello che dovevo pagare. C'erano dei soldi che erano fuori all'estero, perché lo erano storicamente, e grazie a una congiuntura particolarmente favorevole si sono moltiplicati. Ma non per questo uno poi deve pagare una tassa su un reddito che non c'è. Oggi, ad una persona che si trovasse in una situazione analoga alla sua e che stesse pensando casomai di portare i propri soldi all'estero, in Liechtenstein ad esempio, alla luce della sua esperienza, lo scudo e tutto il resto, lei che cosa direbbe? Conviene o non conviene? Visto come si sono comportati nella fiduciaria, direi sicuramente di guardare molto bene dove si vanno a mettere. Questo sicuramente, perché si possono avere delle amare sorprese. Poi, detto questo... Lei dice, dipende da quanto ciascuno è disposto anche a rischiare. Sì, forse. Quando nel 2001 ho scudato, chiaramente se ne parlava. Con altre persone che forse erano nella stessa situazione, poi chiaro, nessuno si sbottona, però in generale la risposta era: ma tu sei matto a scudare. Questo era il sentire generalizzato in Italia qui. Perché? Perché non si fidavano del fisco italiano? Io ne ho parlato addirittura con un politico del partito sotto il quale è stato fatto lo scudo. Del centrodestra? Un politico del centrodestra le suggerì di non scudare? Di non scudare. Ma secondo lei è cambiata anche la percezione che si ha nei confronti di chi ha i soldi o aveva i soldi all'estero? Cioè c'è stato un tempo in cui forse, lei dice, se ne parlava abbastanza facilmente. Oggi chi ha dei soldi all'estero come viene considerato, come viene additato? Come minimo un delinquente. Fino a qualche tempo fa, anche se sotto sotto veniva condannato, però l'area del furbo, del quello che sì, lui sì che sa fare i suoi interessi, dove non è giusto né una cosa né l'altra. Secondo me lo Stato dovrebbe agire in un modo tale per il quale non si abbia interesse a portare all'estero dei soldi per proteggere e proteggersi. Se lei per caso volesse, potesse anche proprio mandare, diciamo, un messaggio a quest'ultimo governo, il governo Monti, da chi come lei ha avuto un'esperienza particolare sul fronte fiscale, i capitali all'estero, lo scudo e tutto quello che ne è venuto dopo, che cosa gli direbbe da ex evasore, diciamo così, che cosa scriverebbe al premier Monti? Sicuramente di essere più giusto nelle tassazioni. Con questo non voglio dire che non si debbano pagare, semplicemente di essere più giusto, di usare meglio i soldi che lo Stato incassa con le tasse, e sull'altro lato di guardare un po' meglio a come agiscono le persone che lavorano all'interno di questa macchina fiscale. Hanno un potere enorme, teoricamente esiste il ricorso, però a causa delle sanzioni ridotte, se si aderisce contro sanzioni piene quando si fa ricorso, c'è una sproporzione tale per le quali il contribuente è tutelato molto poco. Sintetizzando, con tasse più basse meno italiani avrebbero i soldi all'estero. Probabilmente sì, ma penso che conti molto anche il fatto di gestire meglio gli incassi che lo Stato ha dai cittadini. A ciascuno il suo finisce qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, o sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.